La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, puntuali come ogni fine settimana a parlare insieme di cinema in questa nostra ora su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, La rosa purpurea, con tutte le novità in sala o quasi di questa settimana, una settimana che somiglia sempre più all'alta stagione cinematografica, con titoli importanti, con autori italiani come Paolo Virzì, che significano molto per il nostro cinema e anche per le speranze di trovare un pubblico ampio. Insomma, c'è tanto materiale di cui parlare, lo faremo come sempre durante questa nostra ora, a partire dai nostri titoli di testa. La vita insieme. L'Italia stanca e faticosa, un figlio che non arriva. Sono i temi di Tutti i Santi Giorni, il nuovo film di Paolo Virzì, capostipite della nuova commedia italiana, ospite della Rosa Purpurea. Uccidere la madre, riscuotere l'assicurazione e pagare un debito di droga. È il cinico piano al centro di Killer Joe, il ritorno di William Friedkin. A quasi 80 anni, l'innovatore del poliziesco e del noir firma un piccolo capolavoro, con Emile Hirsch e Matthew McConaughey. Vivono agli estremi di una terra del futuro inaridita dall'inquinamento. Vanno a lavorare attraversando il nucleo del pianeta e non sempre sanno chi sono. Colin Farrell, Jessica Biel e Kate Beckinsale, protagonisti di Total Recall, remake del film anni 90 con Schwarzenegger. Un ragazzino dotato di poteri sovrannaturali, che vede i morti e vive con passione. Un po' Sleepy Hollow, un po' Il Sesto Senso, convince Paranorman, straordinario esordio animato alla regia, firmato Chris Butler. E allora cominciamo subito con il primo film delle novità uscite in sala in questo fine settimana, ormai fine settimana allungato, visto che, come sapete, dal 4 ottobre i film escono di giovedì, e quindi insomma c'è un giorno in più per andarli a vedere. Adesso vedremo anche con le classifiche quanto ha influito questa novità, ma sembra che siano tutti soddisfatti per l'avvio del cinema il giovedì. Dicevo, cominciamo con una proposta d'animazione, ormai un caposaldo della programmazione cinematografica. Non passa settimana senza novità in animazione 3D, stop motion, classica o come la volete. Questa volta Chris Butler firma Paranorman, che già dal titolo ci racconta di un bambino che si chiama ovviamente Norman e che ha poteri che vanno al di là del normale. Ce lo racconta Chiara Pizzimenti. Norman ha un dono. Buongiorno. Un dono alquanto strano. Piacere di vedervi, ragazzi. Ehi, hey, pace, amico. Pace a te. Come stai? Ehi, hey, come stai tu? È vero che riesci a vedere i fantasmi? Sì. Grandioso. Esatto. Norman vede la gente morta. La memoria va immediatamente al sesto senso. E se si aggiunge che il titolo Paranorman fa correre la mente a una saga che è invece Paranormal, è facile capire che parliamo di zombie, spettri e ragazzi. Norman è il classico giovane incompreso, perché strano, in città. Città che si chiama Blythe Hollow. Non Sleepy, ma sempre New England e con storia di streghe nel passato. Lo sai chi sono? Il barbone puzzolente che vive sulla collina? Sto parlando con lui. Qui nessuno ti ha detto della maledizione della strega, vero? Il suo fantasma sta per svegliarsi e rianimare i morti. Tu sei quello che deve fermarli. Norman e il suo amico cicciottello Neil, un altro diverso, insieme ai rispettivi sorella e fratello e a un bulletto locale, affronteranno gli zombie e gli adulti che non capiscono cosa succede. Sarà però solo il piccolo nerd, i compagni di scuola lo chiamano Abnorman, a capire fino in fondo la strega della leggenda e a darle la pace eterna. Oltre a quelle già segnalate, sono decine le citazioni cinematografiche, piccole e grandi, dal Tim Burton della Sposa Cadavere all'horror di Raimi e Carpenter, dai film per adolescenti, modello Goonies e Stand By Me, ai personaggi come li creava John Hughes. Il tutto in stop motion 3D, modellini animati 24 fotogrammi al secondo, seguendo il metodo della Leica, studio di Portland che nell'animazione è vicina all'Artman di Bristol e che viene dal successo di Coraline e La Porta Magica. Non è una storia di grande originalità, anzi scivola in alcuni punti sulla favoletta morale, ma ha la sua forza proprio nel raccontare alcuni archetipi, oltre che nel buon ritmo e nella grande operazione tecnica. Lo spettatore è davvero in un mondo degli orrori. È un film, non per bambini piccoli, che può essere una scelta alternativa, o almeno così lo hanno inteso i primi a vederlo in sala. Mi è piaciuto perché mi piacciono i film horror e quindi ho trovato divertente il fatto di riproporlo su un cartoon e quindi sì, è carino. Molto. Un film veramente particolare, fuori dal comune, estremamente ingegnoso, interessante, con tanti temi particolari, importanti della vita di oggi. Come l'ha scelto? Sono amante del genere e poi avevo anche voglia di un qualcosa di diverso, non le solite storie romantiche o di fantascienza, una cosa un po' particolare, sì. E allora, missione compiuta, è riuscita per Paranorman, che mischia un po' Bava con Sleepy Hollow e con Tim Burton, ma anche col Sesto Senso, avete sentito, belle atmosfere. Al cinema da questo fine settimana, la classifica che troverà Paranorman, come tutti gli altri film, recita Era Glaciale 4 al primo posto, con ormai quasi 10 milioni e mezzo raggiunti nel suo percorso, Ted al secondo posto, esordio 2 milioni e mezzo al primo weekend, lungo, terzo posto per Step Up 4 Revolution. E allora tre film sopra, abbondantemente sopra il milione e mezzo nel periodo dal giovedì alla domenica, quindi come dire, dicevamo, l'esperimento, anche questo dell'allungamento, sembra dare subito dei risultati interessanti. La rosa purpurea. Guido is an amazing late letter scholar, probably il più grande esperto di martiri protocristiani. I know, dici sempre questo tutte le volte. E tu non gli dai retta, era soltanto la mia tesi di laurea, nulla di... Invece è vero, Guido è assurdo, sa tutto di quelle cose là, tipo nomi di strade, di santi, di chiese, tutto. Tutte cose fondamentali. Io lo chiamo Guidopedia. È proprio così. Guido, detto Guidopedia, è un ragazzo molto gentile, molto colto, fa il portiere di notte in un albergo, in un grande albergo, gli piace la notte, ci vive bene perché può dedicarsi alle sue letture, ai suoi martiri protocristiani, di cui è un grande esperto, ai grandi poeti dell'epoca latina, dell'epoca del classicismo greco, di cui sa vita, morte e miracoli. Insomma, Guido è una di quelle persone strane e rare che si possono incontrare nella nostra vita. Fa quasi da contraltare la sua bella, simpatica, giovane ma molto meno colta fidanzata, musicista, Antonia, un amore perfetto proprio perché gli opposti si attraggono, anzi uno vive la notte, lavora la notte, l'altra vive di giorno, avendo un po' messo da parte forse le ambizioni musicali per lavorare più modestamente in un autonoleggio. Antonia e Guido, due belle facce dell'Italia dei 30 anni di oggi, due facce che però devono lottare contro un background che è quello dell'Italia di oggi, un background impoverito, inaridito, da 20 anni di dominio di un modello televisivo imbarazzante, che molto spesso, con il quale molto spesso è davvero impossibile sottrarsi al confronto. È famosa una suonata prima che inizia la partita, allora no? Dai, infatti, prima della partita. Dai, canta. How many quick steps and I think I must run by too many times I feel like home, you know I'm 90. Sì, brava, canzone così va avanti. Brava. Non è finita, la canzone va avanti. Ma scusa, cantacene qualcuna che sappiamo tutti, no? Faccene una di Vasco, dai. Ecco, faccene una di Vasco. Questo è il vicinato di questi due ragazzi che però non si arrendono, sorridono anche a questo tipo di situazioni, non sorridono un po' meno di fronte alla grande mancanza della loro vita, la voglia di avere un bambino che non arriva mai, non arriva da troppo tempo, e allora ci si comincia a preoccupare, ci si comincia a chiedere chi sia la causa di questa impossibilità di arrivare ad un figlio, ci si rivolge ai luminari. Ora, Considerando che la signora, se mi restasse incinta, sarebbe una primipara attempata. Che cosa sarei io, mi scusi? Un termine tecnico. E poi, cara signora, la sua condizione oramai è diventata molto comune, cioè quella di volere il primo figlio in un'età avanzata, voglio dire. Avanzata di cosa? C'ho 33 anni. Ma lei lo sa che Alessandro Magno, con ben 10 anni meno di lei, mi aveva già conquistato l'India? E allora, questo è il ginecologo. Tanti soldi, risultati pochi. Insomma, la coppia a un certo punto rischia di scoppiare, ma l'amore è più forte di tutto e trionfa. Questo tanto per dire in una pillola quello che poi invece si può vedere al cinema in un film veramente molto bello. Grande ritorno di Paolo Virzì in una commedia, perché non perde mai la sua mano leggera Paolo Virzì per raccontare l'Italia, stavolta però stando più vicino all'intimità dei suoi personaggi. Un po' meno corale e un pochino più intimista, se vogliamo, e anche più ottimista, perché questi due personaggi, e questo mi fa venire in mente un parallelo con un film che ho già visto e di cui vi parleremo prossimamente, Il comandante La Cicogna di Silvio Soldini, questi due personaggi, dicevo, sono la faccia bella, pulita e che non si arrende, indomita in un certo senso del nostro paese, che combattono la bruttura esteriore con la bellezza interiore, pur non essendo due che vivono fuori dal mondo, sono due assolutamente inseriti, però è il bello del film di Paolo Virzì averci raccontato, averci dato questa speranza, questa via d'uscita, con un happy ending quasi hollywoodiano in un certo senso, però senza dimenticare di farci vedere con gli occhi di questi splendidi protagonisti un'Italia che vorremmo davvero superare in fretta. Luca Marinelli e Toni, la protagonista, è una vera scoperta, attrice nata anche se al suo esordio. Lei è una musicista, l'avete sentita prima, Federica Ioanna Victoria, il suo nome vero, Toni in arte, ma con Luca Marinelli davvero una coppia perfetta sullo schermo. È un film che rilancia alla grande questa stagione di grandi commedie italiane. Sentiamo Paolo Virzì. Allora Paolo, il ritratto di una giovane umanità che ha voglia di farcela, ottimista nonostante tutto, però sullo sfondo, sul background di un'Italia devastata. È un film comunque di speranza, secondo me, alla fine questo. Anche io lo trovo un film incoraggiante. Si parte dal dato di raccontare il nostro tempo e non ci si chiude gli occhi di fronte alle difficoltà, all'orrore, al grigiore e al gelo, e però siamo rincuorati da questa presenza di questa coppia buffa, strampalata e struggente, che s'ama in questo modo così bellicoso, quest'anima gentile insieme a quest'anima scontrosa, Guido e Antonia. Ecco, è un film in cui ci siamo anche, come si dice, divertiti a togliere di mezzo ciò che ci sembrava inessenziale proprio per concentrarci su di loro, per dare loro il meritato spazio. Tutto questo mettendo, come hai detto tu, due anime molto diverse a confronto, quasi talmente antitetiche da chiedersi che ci fanno insieme, però c'è qualcosa che li unisce, c'è qualcosa che li unirà. Sicuramente hai dato una mano ai martiri protocristiani. Certo, è una figura quasi da eroe cavalleresco, da poema cavalleresco, questo Guido latinista e appunto grande, appassionato, esperto e studioso di martirologi, e l'incontro con questa fanciulla che 6 anni fa gli fece perdere la testa cantando una canzone, che è una ragazza al contrario di lui, spavaldamente ignorante, parolacciara, anche bisbetica per certi versi, però alla fine forse del racconto e quando il ritratto di questa giovane coppia si compie, ci rendiamo conto che forse può darsi che sia stata lei a salvare la vita a lui e non il contrario. Senti, i tuoi film hanno sempre avuto la capacità di raccontare l'Italia, soprattutto i guasti di una degenerazione culturale con qualche momento d'anticipo. Se applichiamo questa formula a questo film, ci viene da pensare che stavolta quello che tu ci stai dicendo è che forse, ritrovando quella capacità di accontentarsi, che è stata forse per tanti anni una cosa quasi negletta. Io direi di, più che di accontentarsi, di innamorarsi e di aver fiducia e di perseguire i propri ostinati desideri, perché già di per sé la passione e il desiderio vale la pena di essere vissuto prima ancora dell'ottenimento del risultato. È un film, secondo me, sulla voglia di voltare pagina, nel raccontare il nostro tempo, nel dare meritato spazio al meglio che abbiamo intorno dopo aver visto tanto peggio. E anche la scoperta di un'attrice, di una verità e di una efficacia straordinaria. Quella è stata una bella scommessa, perché poteva anche essere un azzardo. È una ragazza Federica che non solo non l'aveva mai fatto l'attrice, ma non l'aveva neanche mai desiderato o pensato, e che faceva d'altro, scriveva delle bellissime canzoni che cantava per degli appassionati, non aveva ancora inciso manco un disco, e quindi insomma il fatto di aver dato spazio a un merito, a un grande talento, adesso oggi addirittura è stata già premiata, ecco, ci fa pensare che forse potrebbe essere un'iniezione di fiducia nell'aprire una nuova stagione, anche nel premiare il merito dei tanti talenti sconosciuti che abbiamo. È, diciamo, universalmente riconosciuto il fatto che tu lavori con gli attori, riesci a tirar fuori il meglio dagli attori, diciamo forse più di altri registi. Come si fa? Cioè, com'è che funziona questa alchimia? Perché riesci e come riesci a non farli andare fuori strada? Innanzitutto bisogna sceglierli con cura e con attenzione e con pazienza. Una volta che hai scelto bene, hai fatto quasi forse la maggior parte del lavoro di un film, perché poi se li hai scelti bene non puoi far altro che accompagnarli per mano nel cammino di una realizzazione. Io mi sono sempre messo a fare il lavoro di regista pensando che prima di tutto fosse questo il mio compito, quello di scegliere i talenti giusti e i collaboratori giusti, di non essere pigro, di non accontentarmi delle proposte convenzionali, di non portarmi dietro per forza i soliti, ma ogni volta di cercare le persone giuste. E così abbiamo fatto anche con Luca, con Federica, con il cast tecnico di cui mi sono circondato, dove ci sono giovanissimi collaboratori dei reparti dei costumi, della scenografia, della fotografia. È un gruppo di lavoro scelto con cura e scelto appositamente pensando all'anima di questo film. E allora, questo era Tutti i Santi Giorni, il nostro consiglio vivo per il vostro weekend cinematografico, firmato Paolo Virzì. Cominciamo a giocare con il nostro DVD game. Anche questa settimana giochiamo in alta definizione Blu-ray con questa clip. Senta, mi piace l'arredamento, la musica, è tutto molto bello, però non compro a scatola chiusa. E ho altro da fare oggi. Avete già capito di che film si tratta? Se vi ricordate il titolo, scrivetecelo alla rosapurpure@radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film, una copia in palio per il più veloce e bravo dei nostri ascoltatori il sabato e la domenica. Più tardi ci saranno, come sempre, altre due tracce per voi. La rosa purpurea. Un'ultima cosa. Perché sia tutto ben chiaro. Nessuno degli elementi della vita segreta che ha scelto può essere reale. Causerebbe conflitti e confusioni insanabili, così si frigge il cervello. Tranquillo, non ho nessun segreto. Si prepari a salvare il mondo? Buon viaggio. Ma che c'è? Perché? Che succede? Tira fuori l'ago prima che vada in circolo. Perché sei qui? No, no, no! Polizia federale! No, c'è un equivoco! Non sono nessuno! Non sono nessuno, c'è un problema di identità, forse anche nel film, ma non voglio anticipare il nostro commento in questo Total Recall, il remake di Total Recall Atto di Forza, film di una ventina d'anni fa più o meno, con, forse qualcuno di voi lo ricorderà, con Arnold Schwarzenegger, filmato da Paul Verhoeven. Questa volta il remake di Len Wiseman con tre nomi importanti nel cast: Colin Farrell, protagonista, Kate Beckinsale e Jessica Biel, le due figure femminili. È il momento in cui, appunto, il chi sono, qual è il mio passato è un po' la domanda dominante. Pensate a tutta la saga di Bourne, eccetera, eccetera. Anche in questo caso si parte da questo. Assunto, Doug Quaid, un operaio della colonia, che è sostanzialmente l'attuale Australia, in un mondo del futuro. Le due uniche aree che sono rimaste abitabili, vivibili, sono la colonia e la Britannia, ovvero l'Inghilterra attuale. Unite con un julverniano buco nella terra da una sorta di metropolitana leggera, diciamo così, che unisce appunto i due poli passando al centro della terra, ben all'interno del nucleo, e uscendo così nella fermata successiva, che è appunto in Britannia. Forse questa è una delle cose immaginifiche più belle di questo film, tratto, lo ricordo, anche in questo caso dal racconto di Philip K. Dick, che appunto era la base anche del primo Total Recall. Come avete sentito anche dalla clip, succede che invece Doug Quaid non è Doug Quaid, è qualcuno a cui è stata impiantata una memoria alternativa. Qui siamo in zona Inception, se vogliamo, un pochino, anche se chiaramente il racconto di Dick e anche il primo Total Recall sono molto precedenti, e che cerca di ritornare in possesso del se stesso, anzi è il se stesso che comincia a dare segni di sé all'interno di questa memoria ricostruita. Situazione molto affascinante quella letteraria creata da Philip Dick, un po' meno quella di questo Total Recall, di questo remake. Già il primo film non è che fosse un trionfo di bellezza, in questo caso un remake forse anche poco motivato, che parte anche abbastanza bene nei primi 20 minuti, però poi a un certo punto comincia a fare un po' acqua da tutte le parti, rimangono spari, esplosioni, morti e feriti, ma insomma forse niente di più. Chiedo se è d'accordo, ma può come sempre anche non esserlo, il nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ma noi siamo legati da una, come dire, da una corrispondenza d'amorosi sensi, anche cinematografici sensi, e quindi sono pienamente d'accordo con te. Io ho qualche domanda più che qualche risposta su Total Recall. La domanda è sostanzialmente una: qual è il motivo che porta un insano produttore, un insano regista a fare un remake di un film che era già mediocre di suo? Perché quella è la straordinaria, lo straordinario nonsense di Total Recall, al di là della storia che avrebbe pure i suoi punti di interesse, al di là di una recitazione secondo me sotto il livello di guardia, insomma, non facciamo mistero del fatto che ci manca tantissimo Schwarzenegger, abbiamo detto tutto. C'è anche l'aspetto che la materia prima di partenza era comunque non eccelsa. In più qui viene da una parte resa noiosissima e molto lunga, dall'altra c'è una pretenziosità che in quel film di Verhoeven, che era un film fondamentalmente molto cialtrone, non c'era. Quindi qui a un certo punto si convincono di poter fare Blade Runner, e quando non riescono a fare appunto neanche l'originale Total Recall. In più sono passati anni e anni e anni, e quella che allora poteva sembrare un punto di partenza interessante è stato superato dai vari Johnny Mnemonic, Matrix e compagnia, che la memoria persa, venduta, ricomprata, installata l'hanno sostanzialmente analizzata in tutti i suoi modi. Quindi francamente Total Recall, oltre ad essere un film brutto, a me sembra veramente del tutto inutile. Bene, abbiamo, come dire, spezzato in due anche Total Recall, atto di forza. Insomma, ovviamente per chi ama le grandi messe in scena spettacolari, le immaginazioni del mondo del futuro, magari un occhio glielo può pure dare. A me sembra che ci sia troppo Blade Runner dentro questa soluzione scelta, però insomma qualcosa magari qualcuno che è appassionato del genere può anche trovare. In mezzo però davvero a delle lungaggini che soprattutto nella seconda parte ti portano, se non hai proprio un'efficienza fisica perfetta, anche a qualche piccolo sonnellino. Andiamo a giocare insieme per la seconda volta, prima di parlare degli altri film che ci aspettano. Sentiamo la seconda traccia misteriosa di oggi. Mi dia un cioccolatino. Niente cioccolato per l'indicappato. Scherzavo, eh? Oh, scherzavo! Ah, scherzavo? Sì, scherzavo. Sono spiritoso, eh? Molto spiritoso, molto bravo. Dicevo per dire... Di che film si tratta? La Rosa Purpurea @ radio24.it, nome, cognome, titolo e indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi, l'ultima possibilità. Andiamo avanti con un titolo molto atteso di questa stagione cinematografica, che è arrivato, qualcuno dice finalmente, qualcuno dice purtroppo, in sala. Io parto da una, prima di farvi sentire la clip, parto da una così premessa. Mettere Jack Kerouac in mano a Walter Salles non è esattamente forse un'idea geniale. Walter Salles è un regista che ha la tendenza a far diventare tutto un grande tramonto rosa e azzurro, tutto un grande ballo romantico o romanticheggiante, insomma tutto un po' edulcorato, sdolcinato. Questa è un po' la cifra di Walter Salles, che ha anche firmato film non molto criticabili. Purtroppo non è il caso. Invece la materia di Jack Kerouac è materia ruvida, è materia veramente da Beat Generation, e stiamo parlando ovviamente di On the Road. Conobbi Dean che mio padre era morto da poco. Era un giovane scrittore che tentava di decollare. Ma Dean era spinto da un'ansia di vivere. Aveva appena sposato una ragazza di 16 anni di nome Mary Lou. Non le trovi queste persone assolutamente favolose? Mai visto qualcuno come loro? Non fare niente che io non farei. Con l'arrivo di Dean Moriarty cominciò quella parte della mia vita che potremmo chiamare la mia vita sulla strada. Ci sei messo su questa benedetta strada? Dean non sente la responsabilità verso gli altri. Ma Dean diverte tutti essendo se stesso. Regala illusioni. Boris, On the Road è uno dei titoli più, come dire, annunciati di questa stagione cinematografica. Arriva sul grande schermo, ma le prime percezioni sono di una certa delusione. No, assolutamente d'accordo con te, sembra di vedere una fiction televisiva di basso livello. Come dicevi tu, Salles è capace di appiattire anche il romanzo più complesso e la storia più elaborata. Qui tra l'altro secondo me fa una serie di scelte sbagliate clamorose, dal non rispettare i presupposti filosofici, morali, umani della rivoluzione beatnik, che è pienamente rappresentata da On the Road e probabilmente è stata anche in qualche modo fatta esplodere con On the Road, alla scelta cinematografica. Non c'è ritmo, non c'è sceneggiatura, che è semplicemente una pedissequa traduzione in immagini delle parole di Kerouac e non delle sensazioni. E poi francamente sono sbagliati i tre attori protagonisti, tra cui Kristen Stewart, che forse poteva essere Mary Lou dopo Into the Wild, quando era quella ragazzina sbarazzina e sfacciata, non certo dopo Twilight, in cui ha messo su un pallore, un broncio d'ordinanza che non restituiscono l'irrequietudine, la sensualità, la forza esplosiva e autolesionista di Mary Lou. Quindi veramente, se amate Jack Kerouac non vedete On the Road, ma anche se non amate Jack Kerouac non vedetelo lo stesso. Insomma, qualcuno andrà pure a vederlo questo On the Road, che però non è esattamente, come dire, un film sul quale puntare per passare le proprie due ore di cinema in questo fine settimana e magari anche per spendere i propri soldi. Abbiamo un altro film di cui parlare, ritorna un grande nome della cinefilia di genere, come quello di William Friedkin, si intitola Killer Joe, sentiamo il trailer. Mi servono $6,000 o certi tipi mi ammazzano. Allora è meglio se lasci la città. Ma hai sentito parlare di Joe Cooper? È un poliziotto, un detective di preciso. Ha una piccola attività collaterale. Che cosa fa? Uccide persone. Mamma ha $50,000 di assicurazione sulla vita. Killer Joe è un professionista, lo farà come si deve. Stiamo parlando di omicidio, non ho detto che sono d'accordo. Ho sentito che parlavate di uccidere mamma. Sì, è una buona idea. Ecco, hai visto? La mia tariffa è $25,000, in contanti, nessuna eccezione. Non è questo il problema. E allora qual è il problema? Abbiamo un problema con i soldi da anticipare. Nessuna eccezione, la conversazione è terminata. Però non abbiamo discusso la possibilità di una caparra. Che vuol dire? Ehi, bello, stai parlando di mia sorella? Ecco, avete sentito Emile Hirsch, eccolo l'altro protagonista di Into the Wild, Emile Hirsch con William Friedkin regista, con Matthew McConaughey nel cast. È molto interessante accostare questo film a On the Road, perché qui dimostra invece come un grande regista, uno che padroneggia la macchina del cinema, della sceneggiatura, delle immagini, sappia fare cinema con poco, con una storia molto semplice, con pochi attori che si muovono in pochi scenari, proprio il contrario di Walter Salles, che invece vuole tante cose attorno a sé e poi magari non è capacissimo tutte le volte di gestirle, no Boris? Assolutamente d'accordo, proprio risentendo il trailer pensavo quanto sarebbe stato più bello On the Road rifatto da Friedkin con Emile Hirsch e Juno Temple al posto di Sal e Mary Lou, e questo è forse proprio questo rimpianto rende l'idea di quanto è bello Killer Joe. Killer Joe è esattamente come avete sentito dal trailer, folle, cattivo, c'è un figlio e un marito che decidono di ammazzare la moglie e la madre, e la sorella minore di Emile Hirsch che dice ma perché no, e tra l'altro la sorella minore sarà anche forma di pagamento per il sicario, che è uno straordinario Matthew McConaughey, che è davvero in preda a una trasformazione che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare. Era un attore più che mediocre fino a che era sotto i 40 anni, superati i 40 anni è diventato uno degli attori migliori, da Magic Mike adesso a Killer Joe sta dando delle prove pazzesche. E il film ci fa anche pensare al ricambio generazionale, lo invochiamo, ci troviamo un regista quasi ottantenne che gira come un diciottenne. La retorica del giovani dentro in questo caso vale in tutta la sua forza. È un film secondo me straordinario perché nella sua follia, nella sua violenza, nella sua forza distruttrice di determinati schemi, Friedkin rimane un innovatore, non ha perso una ticchia della sua rivoluzionarietà, e devo dire questa è forse la cosa più straordinaria, e gira ancora in maniera straordinaria. È sicuramente il film della settimana, soprattutto perché stupisce che a farlo sia uno che ha 4 volte 20 anni a questo punto. Benissimo, allora dall'autore di Vivere e morire a Los Angeles, William Friedkin, c'è Killer Joe nelle sale italiane. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te, alla prossima settimana. Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte del nostro programma, per segnalarvi il cinema da vedere in casa quando proprio non potete andare in sala o volete puntare un videoregistratore. Insomma, c'è anche la possibilità, vi scusiamo per la possibilità di utilizzare l'home video. Home video e anche televisione, perché la televisione come sempre ci regala andare a guardare bene e soprattutto andare a guardare tardi, delle belle possibilità di rivedere grandi classici, ma anche film che sono passati magari tanti anni fa ormai e che non sono stati più raccolti dal mazzo, come si fa con i fiori più belli. È il caso di questo primo film di cui vogliamo parlare con gli amici del settimanale Film TV, è in collegamento con noi Giulio San Giorgio, ed è The Reflecting Skin, Riflessi sulla pelle, un film firmato Philip Ridley del 1990, un film bellissimo con un'atmosfera noir davvero struggente, che fu presentato al Festival di Locarno, ebbe il Pardo d'Argento, ebbe un grande percorso nelle sale, poi Philip Ridley a un certo punto è quasi sparito, ma adesso potete recuperare questo straordinario film in televisione. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Il primo film appunto è Riflessi sulla pelle, martedì su Rai Movie alle 23.05. Siamo negli anni 40, Seth è un bambino di 9 anni che vive con i genitori in una casetta persa nell'immensità della pianura canadese, è circondato da adulti squallidi ed è decisamente propenso al macabro. È l'esordio folgorante di uno scrittore, sceneggiatore e pittore, Philip Ridley, ed è un film bellissimo, un'opera onirica iperrealista tra Stephen King e David Lynch, un film pessimista e gonfio di simboli da decriptare. È complesso, decisamente denso, è una sorta di apologo sulla morte e l'innocenza, ancora oggi decisamente impressionante. E questo è Riflessi sulla pelle, The Reflecting Skin di Philip Ridley, martedì 16 ottobre 23.05, anche un orario abbastanza possibile su Rai Movie. Così come su Rai Movie, 2 giorni dopo passa un classico del cinema più d'autore, che mischia il genere all'autore e che dice tante cose attraverso una ideale linea di regia molto molto semplice, ideale ma poi in realtà molto molto sofisticata. Stiamo parlando di Straw Dogs, Cane di Paglia, c'è davanti alla macchina da presa Dustin Hoffman, dietro la macchina da presa il grande padre di tanto western moderno che trasferisce anche in questo grande film, ovvero Sam Peckinpah. Sì, Cane di Paglia, giovedì su Rai Movie alle 23.15, quindi un altro orario accessibile. David, un uomo tranquillo, vincitore di una borsa di studio, si trasferisce in Cornovaglia con la moglie che in quel posto è nata. L'umanità del luogo lo provoca, lo sfinisce, lo aggredisce, violenta la moglie e infine assedia la sua casa. Il caro tranquillo ragazzo pacifista decide di reagire. È uno dei film più folli di Sam Peckinpah, con una furia inventiva, sadica, nichilista, incontrollabile, barocca, che porta a galla le pulsioni più basse dell'uomo e critica ogni visione utopistica della società che per Peckinpah è un coacervo di bestie. Seguitoso da Dustin Hoffman, capace di trasformarsi da timido succube a belva furente. Altro film imperdibile. Altro film imperdibile, allora non perdetelo, giovedì 18 ottobre 23.15, sempre su Rai Movie Digitale Terrestre, come sempre in chiaro e gratuito. Grazie Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, bene, allora dopo questi due bei consigli con Film TV è arrivato il momento di giocare per la terza volta insieme col nostro game di oggi. Scusa, ci torno perché mi intriga questa storia dell'orecchio. Godi veramente? Cioè, per esempio, se ti vedo gli orecchi rossi, vuol dire che sei eccitato? Sì, esatto. E curiosamente al mattino mi sveglio con gli orecchi un po' duri. Tutti e due. Tutti e due. Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta e il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Settimana scorsa avevamo giocato così. Dobbiamo trovare un accordo, quindi fammi un'offerta. 10.000, andato, $10.000. Senti, così siamo pari. Se non ti vanno posso salire a 15. No. Mia sorella vuole che ti uccida. O potrei chiamare la polizia. Ma non mi piace la polizia e la polizia non pagherà i conti di mia sorella. È stato un game per intenditori quello della settimana scorsa, non facile, però bravi i nostri ascoltatori che comunque hanno indovinato. I due più veloci del sabato e della domenica sono stati Marco Salzano di Napoli e Fabrizio Ulisse di Roma, saranno loro a ricevere Onora il padre e la madre. Questo era il film con cui abbiamo giocato 7 giorni fa e che ci racconta con la sua edizione un video il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, da Medusa Film Home Entertainment, la seconda pubblicazione in un video dell'Intenso Noir di Lume, la prima in alta definizione, un Blu-ray di strepitosa qualità d'immagine, ma anche l'audio è allo stesso livello, con una doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano-inglese, di spessore di extra, con 30 minuti di approfondimenti sul film, in compagnia di prestigiosi interventi come quello del giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo, e ancora 2 capitoli per un totale di 42 minuti sul set, osservando il maestro Lumet al lavoro. E questo è allora Onora il padre e la madre, il game della scorsa settimana, atmosfere anche qui di nere d'autore, potremmo dire, in questa edizione. Invece un ritratto biografico, una sorta di biopic legato però a un personaggio che la libertà e la democrazia hanno riaccolto e riabbracciato recentemente. Stiamo parlando di Aung San Suu Kyi, la leader della resistenza birmana, premio Nobel per la pace. The Lady è dedicato a lei. Signora, io e i miei colleghi siamo professori della facoltà di storia e siamo convinti che ora lei sia l'unica persona che può condurre la Birmania alla democrazia. In quanto figlia di Aung San, il popolo si schiererà senza esitazioni al suo fianco. Suo padre ha combattuto e conquistato l'indipendenza per la Birmania. Questa è l'opportunità di finire ciò che ha iniziato. Cerchiamo di non lasciarcela sfuggire. In seguito all'assassinio del padre, leader per l'indipendenza e la democrazia birmana, la giovane figlia Aung San Suu Kyi si trasferisce in Inghilterra, dove cresce e mette su famiglia. Nel 1988 è rientrata in Birmania per seguire la madre malata e testimone delle insurrezioni popolari contro il regime militare, diventando ben presto vessillo dei diritti democratici, sacrificando se stessa e la famiglia per la lotta del suo paese, insignita del Nobel per la pace nel 91. Melodramma convenzionale di Luc Besson, ma per questo non meno coinvolgente, un eccellente Blu-ray da parte di Koch Media, sia per la parte video che audio, con una doppia traccia di DTS in italiano e in inglese, ad alta risoluzione. Come extra segnalo due capitoli sulla lavorazione, ma molto importante anche un aggiornamento sulla situazione dei diritti umani a Myanmar a cura di Amnesty International. E per quanto riguarda invece l'ultima segnalazione, noi andiamo direttamente a sentire alcuni passaggi di un film che aveva avuto nei suoi anni, stiamo parlando degli anni 50, una grande eco ed è rimasto un po' nell'immaginario, grazie anche a una grande interpretazione di Jimmy Stewart. Stiamo parlando di Harvey. Secondo la mia opinione, Elwood Dow soffre di allucinazioni di terzo grado. Io consiglio la formula numero 977. Si tratta di un siero molto forte che lo riporterà alla realtà. È tutto inutile, rinchiudetelo. Se questa formula riporta veramente alla realtà, non vogliamo altro per Elwood. Sì, e se Elwood non vedrà più il coniglio, dategli il siero. Se poi Harvey si azzarda a tornare, lo sistemo io. Vuoi smetterla per piacere di parlare di Harvey come se esistesse sul serio? Myrtle May, tu non sai tante cose e spero che tu non le conosca mai. Oh, mamma. Elwood Dowd è un baldo quarantenne, uno scapolone assecondato come lo svitato del paese da quando afferma di convivere giorno e notte con un grosso coniglio bianco che nessun altro vede e che lui chiama Harvey. Messa in ridicolo la famiglia, la sorella di Elwood, che vorrebbe liberarsene per maritare la figlia, decide di farlo internare in una clinica psichiatrica, finendo lei stessa ricoverata per una serie di incredibili equivoci. Delicata e amabile commedia, classe 1950, sulla realtà e ciò che si antepone a essa per sfuggirvi, ora disponibile in alta definizione grazie a Universal, che l'ha addirittura inserito tra le opere restaurate per il 100° anniversario della Major. Strepitosa qualità d'immagine, una traccia DTS monofonica in italiano, di ottima resa, migliore la DTS ad alta risoluzione inglese. Oltre al trailer c'è un capitolo con la voce fuori campo del grande Jim Stewart, che torna con la memoria alla realizzazione del film e al suo memorabile personaggio. E questo è Harvey, allora, nelle videoteche, grazie a Claudio Poffi. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, a presto. Le note della nostra sigla ci dicono che è arrivato il momento di salutarci. Io vi ricordo la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace per essere informati costantemente sulle novità, sui temi della trasmissione in anticipo. Potete dirci la vostra sui film che vedete, noi vi rispondiamo. Potete anche criticarci, chi lo sa. Questo può succedere e ogni tanto succede, ma è bello anche così. Grazie a Giorgio De Luca che ci ha aiutato in redazione, a Peter Bescapè in regia. Un saluto da Franco D'Assisti.